partecipare come espositore, vai su agenti.it e clicca su Forum Agenti Milano, forumagenti.it, dove le aziende incontrano gli agenti. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La BCE conferma la ripresa europea, forte contributo da donne e immigrati, dice il bollettino. Catalogna prosegue la protesta dopo gli arresti, in centinaia si raccolgono sotto Palazzo di Giustizia. Messico sale a 245, il numero delle vittime per il terremoto, 115 solo nella capitale. Ryanair, la procura di Bergamo apre un'inchiesta, va deserto l'incontro previsto con ANAC. Al via, a Genova, il Salone Nautico, 884 aziende presenti e 1100 barche esposte. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per sms e messaggi su WhatsApp. E c'è anche, come sempre, la nostra diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla pagina di Facebook della trasmissione. In apertura dunque il bollettino della Banca Centrale Europea, nel quale si sottolinea tra l'altro l'apporto dei migranti e delle donne alla crescita del vecchio continente. Valutazioni quelle dell'Istituto di Francoforte che il presidente Draghi aveva di fatto anticipato nella recente conferenza stampa. Viene confermata dunque la revisione al rialzo per la crescita di quest'anno, più 2,2% rispetto all'1,9% precedente. L'espansione economica dell'Eurozona prosegue, spiegano dalla BCE, e mostra segni di crescente tenuta, mentre le misure di politica monetaria sostengono la domanda interna. La ripresa degli investimenti continua a essere spinta da condizioni di finanziamento molto favorevoli, da miglioramenti della redditività delle imprese. I meriti della ripresa economica la Banca Centrale Europea li riconduce soprattutto a donne ed immigrati. Discorso valido, spiega il bollettino, soprattutto per Germania ed Italia. L'aumento della forza lavoro durante la ripresa economica viene spiegato è stato trainato dalla partecipazione femminile e dall'afflusso di lavoratori dai nuovi stati membri dell'Unione Europea. Probabile rallentamento poi dell'inflazione verso fine anno. In Italia infine il tasso di disoccupazione è sì in diminuzione, ma non può essere definito un calo significativo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. In Catalogna, all'indomani del blitz della Guardia Civile, delle tensioni di questa notte, ripartono le proteste degli indipendentisti a Barcellona. Siamo in diretta con Mario Magarò, appunto, dalla capitale catalana. Mario, buongiorno, dove ti trovi? Che cosa vedi? Cosa succede? Vai. Buongiorno a voi. Io mi trovo davanti alla sede del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna, dove in migliaia hanno già risposto all'appello lanciato dalle principali associazioni indipendentiste della Catalogna, appello appunto a scendere in piazza contro, per protestare contro il governo spagnolo. Qui, in un mare di bandiere indipendentiste catalane, le cosiddette Estelades, sono comparse anche bandiere dei Paesi Baschi, a dimostrazione dell'amicizia dei due popoli, a dimostrazione anche di alcune dimostrazioni in favore, a sostegno della Catalogna, che si sono registrate in diverse città della Spagna nella giornata di ieri, compresa Madrid. Tra i vari slogan scanditi qui dai manifestanti si è udito anche il Nothing for, non ho paura in catalano, utilizzato qui a Barcellona durante i giorni degli attentati terroristici ad agosto. Una nota interessante a riprova della grande tensione sull'asse Barcellona-Madrid è che ieri ha attraccato a Barcellona il primo dei due traghetti della compagnia italiana Grandi Navi Veloci, noleggiate dal Ministero dell'Interno spagnolo, per dare alloggio a 4.000 agenti di polizia spagnoli che saranno inviati qui la prossima settimana, appunto a Barcellona, a pochi giorni dal referendum. Io ti ringrazio, grazie a Mario Magarò per questo aggiornamento. Per quanto riguarda l'aggiornamento invece politico, ci sono le parole del vicepresidente catalano Oriol Junqueras, dice: è evidente che non potremo votare come sempre, ma con il resto dei miei collaboratori cercheremo di essere responsabili e all'altezza delle circostanze, appunto in merito al voto e referendum per l'indipendenza previsto per il 1 ottobre. Sulla vicenda catalana, l'analisi e il racconto di quello che è successo in questi anni del nostro Daniele Daniele Biacchessi. In 10 anni la Catalogna è passata dalla richiesta di indipendenza politica ed economica dalla Spagna alla rivolta. Nel 2006 Madrid mette in campo una revisione dello statuto catalano che rafforza l'autonomia. La Catalogna diventa quindi una nazione all'interno dello Stato spagnolo. Pochi mesi dopo però il Partito Popolare all'opposizione presenta un ricorso contro il nuovo statuto alla Corte Costituzionale. 4 anni dopo, nel 2010, il Supremo Tribunale Costituzionale spagnolo annulla una parte dello statuto catalano. La Catalogna non è più nazione. La prima rivolta di una minoranza di catalani porta poche migliaia di persone in piazza, ma la ribellione s'allarga. Nel settembre 2012 1 milione di persone invadono Barcellona. Il popolare Rajoy al governo nega al presidente della Catalogna Artur Mas una maggiore autonomia fiscale. Mas poi vince le elezioni, chiede un referendum sull'autodeterminazione, una consultazione che nel 2014 registra una partecipazione modesta, 36%, ma il voto favorevole va oltre l'80%. Siamo nel settembre 2015 quando la Catalogna va alle urne. I partiti separatisti raggiungono il 47,8%, sono dunque maggioranza. Il 10 gennaio 2016 Puigdemont diventa presidente e annuncia il referendum per il 1 ottobre 2017. Rajoy assicura che il referendum non si farà. Tra schermaglie burocratiche e politiche si arriva agli arresti delle ultime ore, alla vera e propria rivolta in un paese lacerato e diviso. Siamo agli aggiornamenti sul terremoto in Messico. Si chiama Frida Sofia, ha 12 anni, respira e parla da sotto le macerie della sua scuola, crollata a Città del Messico per il terremoto che ha colpito il paese 2 giorni fa. È attaccata a questa voce, a questo respiro, la speranza dei messicani. Le squadre di soccorso lavorano intorno alle macerie della scuola incessantemente, illuminate da grandi fari perché la notte è calata sulla città. Una folla assiste silenziosa a quello che potrebbe essere un miracolo dopo quello avvenuto ieri, l'estrazione insperata di un'altra bambina viva sotto le macerie. Ci potrebbero essere anche altri 2 sopravvissuti. Per il resto il paese fa i conti con i feriti, con il dolore dei familiari delle vittime, con le infrastrutture da rimettere in piedi, con la paura di nuove scosse, come testimonia un italiano che vive lì, Fabrizio Lorusso. Chiaro, ci sono state 11 repliche nella stessa giornata del 19, abbastanza forti, e addirittura l'università ha offerto un servizio gratuito di attenzione psicologica, si chiama, quindi, per le persone che hanno bisogno, no, di recuperare dallo shock. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono da registrare di poco fa le parole del Papa sul tema della pedofilia. La coscienza della Chiesa è arrivata un po' tardi, dice Francesco, e quando la coscienza arriva tardi, i mezzi per risolvere il problema arrivano tardi. Queste le sue parole ricevendo la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori. Forse l'antica pratica di spostare la gente, ha aggiunto, di non fare fronte al problema, ha addormentato un po' le coscienze. La questione della chikungunya: non vi è in atto alcuna interruzione delle attività operatorie nelle strutture ospedaliere del Lazio, soprattutto per quanto riguarda le operazioni salvavita. Lo ha precisato in una nota la Regione, assicurando che ad oggi, a 7 giorni dal blocco delle donazioni di sangue per i residenti della ASL Roma 2, il centro regionale ha ricevuto in compensazione 1500 sacche di sangue dalle altre regioni. Quindi da questo punto di vista, a quanto pare, non ci sono problemi. È indagato il presidente della ANM. Si apre con un colpo di scena a Roma il processo a carico di Giulio Occhio Nero, l'ingegnere nucleare accusato di aver svolto attività di cyberspionaggio ai danni di personaggi politici. Questa mattina, nella prima udienza, i suoi legali hanno fatto sapere di aver presentato un esposto nei confronti di Eugenio Alba Monte, il pubblico ministero che rappresenta l'accusa nel procedimento. Sulla base della denuncia, il magistrato, che è anche il presidente dell'ANM, è stato iscritto nel registro degli indagati a Perugia per falso e abuso d'ufficio. Con lui sarebbero indagati anche 2 agenti della polizia postale. Secondo la procura di Roma, Giulio Occhionero e sua sorella Francesca Maria, servendosi di un virus informatico, avrebbero violato o cercato di violare le caselle di posta elettronica di politici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, accuse per le quali lo scorso 9 gennaio erano stati arrestati. Nel corso delle indagini sarebbero stati commessi degli errori, sostengono però i legali di Occhionero, che dopo la denuncia chiedono ad Alba Monte di astenersi dal processo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso Ryanair va deserto l'incontro con l'ENAC, mentre la procura di Bergamo apre un'inchiesta. Dopo l'antitrust sui voli cancellati da Ryanair si muove anche la magistratura. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, ha infatti presentato un esposto e la procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta sul caso Ryanair. Al momento, spiega l'associazione dei consumatori, il fascicolo è senza ipotesi di reato. La magistratura, dice il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, dovrà chiarire quando Ryanair ha avuto consapevolezza delle difficoltà organizzative con i voli, ma anche se vi sono stati ritardi nella decisione delle cancellazioni, se la compagnia sta rispettando la normativa sui risarcimenti ed eventuali ipotesi penalmente rilevanti. Dopo il caos provocato dalle migliaia di cancellazioni decise dalla compagnia, anche l'antitrust è scesa in campo e ha aperto un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette in violazione del codice del consumo. Ryanair intanto oggi non andrà all'incontro convocato d'urgenza dall'ENAC, l'ente di controllo dell'aviazione civile, per impegni legati alla gestione della cancellazione dei voli, spiega una nota della società. Disponibile però un incontro solo ai primi di ottobre. La compagnia irlandese dovrà rispondere entro venerdì anche all'ultimatum dei piloti che hanno respinto la proposta del bonus di 12.000 euro per rinunciare alle ferie, chiedendo all'azienda, fra l'altro, contratti di assunzioni locali e non più irlandesi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato arrestato in Olanda dal comando provinciale di Reggio Calabria, insieme al gruppo di Gioia Tauro e con la collaborazione della stessa polizia olandese, il latitante Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, del Regino, evaso ai domiciliari 6 anni fa e ritenuto un elemento di spicco della cosca di 'Ndrangheta dei Bellocco. Il tenente colonnello Andrea Milani, comandante dei carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, al microfono di Adriana Fracchia. Bonarrigo era ricercato dal 2011, allorquando si era allontanato, quindi era evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per sottrarsi a un'ordinanza di custodia cautelare nel frattempo intervenuta e emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta di quella procura distrettuale per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A seguito quindi di questa sua latitanza sono iniziate le attività di ricerca, che poi hanno avuto una forte accelerazione negli ultimi 8 mesi, che hanno consentito, grazie anche alla collaborazione della polizia olandese e alla possibilità di risalire attraverso l'attività investigativa alle varie false generalità utilizzate dal latitante, di localizzarlo nella capitale olandese e di avviare quindi dei servizi congiunti con la polizia olandese che hanno consentito, da un lato, di localizzarlo, di rintracciarlo e di riconoscerlo, soprattutto, che è la cosa fondamentale che ha permesso poi la sua cattura in quella capitale. Andiamo a Genova adesso, si apre il Salone Nautico, questa mattina l'inaugurazione, come sapete Radio 24 ampiamente presente con dei suoi studi. Per quanto ci riguarda saremo in onda da là, Effetto Giorno sarà in onda da là nella giornata di lunedì, se volete venirci a trovare, là ci trovate appunto, alla solita ora come ovvio. Intanto andiamo a sentire com'è questo salone. Andrea Ferro, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Simone, una bella giornata di sole fa da cornice a questa grande festa del mare che è il Salone Nautico. Stamane l'inaugurazione, edizione numero 57, a tagliare il nastro il ministro dei trasporti Delrio, il vice ministro dell'economia Casero, il presidente di Confindustria Boccia. Questa edizione celebra il consolidamento della ripresa di un settore che negli ultimi 2 anni ha saputo virare verso un orizzonte decisamente luminoso dopo la tempesta della crisi. Nel 2016 la crescita del fatturato è stata del 18,6%, quindi oltre le previsioni. Significa nel complesso un contributo al PIL dell'1,92 per mille, pari a 2,8 miliardi di euro. Vola l'export nel nome di un'eccellenza del Made in Italy e sorprende la domanda interna, che continua a crescere con positive ricadute sull'occupazione. Questa atmosfera si riflette sul salone, 884 espositori, più 8% rispetto al 2016, con il ritorno, l'esordio di 70 60 prestigiosi brand italiani ed esteri. In tutto 1100 le imbarcazioni in mostra direttamente in mare o a terra. Inaugurato oggi, il salone chiuderà i battenti martedì, una festa del mare, dicevo, dimostrazioni dal vivo, convegni, anteprima, eppure un po' di spettacolo stasera, una serata dedicata a Paolo Villaggio. Per ora dal salone e da Genova è tutto, a te la linea. Grazie anche ad Andrea Ferro per questo aggiornamento da Genova. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Oggi andremo a Torino, dove è alta la polemica per l'annullamento di una serie di eventi collaterali al G7 che si svolgerà a partire da domenica. Polemica perché questi eventi sono stati annullati anche per paura degli scontri che ci possono essere in piazza. Andremo a Venezia, dove si sono registrati negli ultimi 3 mesi 9 morti per overdose da eroina. Eroina che sta ritornando sul mercato italiano, o meglio, non se n'è mai andata, ma che adesso sta crescendo nel consumo, soprattutto tra i giovani. Una cosa che pensavamo dimenticata e relegata agli anni 80. E poi la vicenda di Bergamo, il tentativo di stupro ai danni di un'operatrice di un centro di accoglienza. Proprio con gli operatori del centro di accoglienza andremo a parlare per capire quali rischi corrono quotidianamente e se li corrono a tutti gli effetti. Traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della Banca Centrale Europea e del suo bollettino, della Catalogna, delle proteste che proseguono, delle vittime in Messico per il terremoto, di Ryanair che ha disertato l'incontro con ENAC e da ultimo, lo avete sentito, abbiamo parlato del salone nautico. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da Torino. Torino perché? Perché, come sapete, a partire da domenica deve iniziare il G7, un G7 che con un'intuizione, a dire la verità, e non lo diciamo perché l'ha presa il governo, però con un'intuizione abbastanza felice mette insieme il G7 dello sviluppo economico, ossia dell'industria, quello del lavoro e quello della scienza, a testimoniare in qualche modo come questi elementi in questa fase, soprattutto in questa fase storica, si vadano a fondere. Succede però che i lavori del G7 saranno confinati e tutti gli eventi collaterali previsti piano piano vengono annullati. Vengono annullati perché? Perché quando si parla di G7, quando si parla di lavoro, quando si parla di industria, ci sono le proteste di piazza. Proteste di piazza che, come abbiamo visto spesso in questi anni, sfociano in qualcosa di violento. Molte testimonianze abbiamo avuto, non solo per quanto riguarda eventi internazionali, ma anche, per esempio, ve lo ricorderete, nel giorno dell'inaugurazione dell'Expo qua a Milano, le violenze che ci sono state, le macchine incendiate, i cassonetti, gli scontri con la polizia. E in qualche modo l'impressione, ed è su questo che si sta innestando la polemica, è di una città che abbia paura, di forze dell'ordine che abbiano paura e che non riescano ad assicurare, soprattutto i fatti che abbiamo visto avvenire in Piazza San Carlo quando ci fu la notte della Champions, la finale di Champions League, e non si sentano più in grado di garantire l'ordine pubblico in questa situazione. Con un certo scorno da parte delle istituzioni o delle associazioni che avrebbero voluto un evento più aperto. Per esempio il Politecnico di Torino si è espresso nei giorni scorsi dicendo: volevamo ospitare un evento da noi e non siamo riusciti a farlo. O i commercianti, abbiamo in linea Maria Luisa Coppa, che è della Confcommercio di Torino ed è anche la vicepresidente nazionale. Buongiorno Coppa, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori, grazie. Ovviamente questa scelta non vi è piaciuta di richiudere tutto alla Venaria Reale, no? Premetto che la parola confinati a Venaria, cioè Venaria sì, è certo, bellissima, ho capito, per cui d'accordo. Essere confinati a Venaria è un ho detto che lusso. L'evento è confinato, sì, per sì, così sì, dire, no, non certo, è che sia un anch'io vorrei essere confinato alla Venaria esatto, Reale, reggia, grazie. Certo, quindi è un posto splendido, però ecco, quello che si percepisce qui è una città che ha avuto, che ha paura da eventi che, come voi avete ricordato, sono successi qualche mese fa e quindi io credo che dagli errori fatti si possa invece trarre profitto per non farne altri. Il grandissimo errore invece che potrebbe succedere è quello di avere paura della paura, e cioè una città come Torino, che rappresenta naturalmente lo sviluppo economico, rappresenta l'industria, rappresenta il lavoro, rappresenta la ricerca, e quindi potrebbe, giustamente, è stata scelta come luogo per rappresentare un G7 su questi temi, il fatto che demandi ad altri territori la presenza, ritengo che sia un segnale di debolezza che non ci possiamo permettere. Sì, perché già all'inizio in realtà il G7, o almeno uno di questi tre G7, si sarebbe dovuto svolgere a Lingotto, e il questore, il prefetto avevano detto non siamo in grado di garantire la sicurezza del Lingotto, quindi già lo spostamento a Venaria è uno spostamento che è avvenuto per questioni di sicurezza. E, dall'altra parte, Coppa, è come se fosse una sorta di concessione ai violenti, come dire, non riusciamo, certo, a tenervi, non riusciamo, no? Certo, allora abbiamo visto in questi ultimi mesi, purtroppo anni, che città che sono state toccate pesantemente da eventi diversi rispetto a quelli che potrebbero, hanno fatto come segnale della propria filosofia quella di essere aperti e di non avere paura. Grazie al cielo Torino era sede di una tappa importante del G7. È vero, c'è stato un errore a giugno, eccetera, ma questo ci deve rendere più sicuri per attrezzarci a ospitare grandi eventi. Torino è una città che ha vissuto in passato anche traumi di carattere di cortei, eccetera, quindi siamo abituati ci siamo fatti le ossa per garantire la sicurezza, quindi non possiamo assolutamente demandare la storia di questa città, il futuro di questa città al fenomeno della paura. Noi rappresentanti delle imprese lo rinneghiamo assolutamente. Sì, da dire che ha parlato questa mattina anche il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, su questa decisione. Ha detto: non so ancora se il G7 sarà per Torino un'occasione persa, potrebbero esserci delle evoluzioni, perché in un'intervista di questa mattina dice: mi sono soltanto limitato a chiedere il perché di alcune decisioni, e annuncia di aver avviato un'interlocuzione con gli organizzatori, e dice: vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà, vedremo effettivamente che cosa succederà. Voglio chiarire poi agli ascoltatori che qualcuno ci scrive sempre dicendo: parlate di questo, la prendete in questo modo perché c'è un'amministrazione 5 Stelle. No, guardi, proprio è l'ultimo pensiero questo, perché tra l'altro molte delle preoccupazioni di sicurezza sono state espresse esattamente dal questore e dal prefetto. Poi ovvio che sta ai decisori politici, che sia il comune o che sia lo Stato, perché lo stesso comune che abbiamo provato a contattare nella giornata di ieri ha detto: parlatene con Gentiloni e con Minniti. Diciamo, non siamo riusciti a raggiungere il ministro dell'interno e il presidente del consiglio, però stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo a Torino. Non ce la prendiamo per questo, è semplicemente un ragionamento generale. Sta poi al decisore politico dire: vabbè, l'evento si fa lo stesso, rafforziamo i dispositivi di sicurezza e via dicendo, e non ci facciamo fermare dalla paura. Grazie Maria Luisa, certo, Coppa. Grazie a voi. Presidente di Confcommercio Torino, per essere stata con noi, e saluto Salvatore Giancane, che è un medico, tossicologo, docente a contratto della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, coordinatore dell'ambulatorio mobile dei CERT di Bologna, sono quelli che curano le dipendenze, le tossicodipendenze. Buongiorno Giancane, benvenuto. Autore tra l'altro di un libro che si chiama Eroina, la malattia degli oppioidi, da oppioidi nell'era digitale. L'abbiamo chiamata per questo, perché come i nostri ascoltatori sanno, noi scandagliamo spesso nelle nostre mattinate tra i quotidiani locali, e l'apertura del Corriere del Veneto di oggi era dedicata esattamente a questo. Il titolo è: Venezia, il ritorno dell'eroina, 9 vittime in 3 mesi. Ora, posto che lei ce lo spiegherà, Giancane, che l'eroina non se n'è mai andata, è semplicemente diminuito il prezzo e cresciuto il consumo, vorrei capire se c'è qualche elemento nuovo in questo fenomeno. Diciamo, diminuito il prezzo e cresciuta l'offerta, è più precisa, insomma, come cosa. Gli elementi nuovi ce n'è tanti e sono elementi che sono sfuggiti, dall'eroina fumata al fatto che l'eroina sia stata in qualche modo banalizzata. Anche gli articoli di questi giorni che parlano di eroina killer sono dei titoli molto pericolosi, perché non c'è un'eroina particolare killer, l'eroina può essere killer sempre e comunque. E quando negli anni 90 in Italia c'erano 1500 morti l'anno, l'eroina aveva un modestissimo 4% di principio attivo. Quindi il mio invito è a non focalizzarsi su questo, ma a focalizzarsi sul fatto che c'è una potente ondata di eroina. Che poi il principio attivo sia in aumento è un dato costante che si registra dal 2004 ad oggi. Come sì, quello che sta dicendo lei, Giancane, sostanzialmente che non è una questione di la famosa leggenda, che poi in certi casi leggenda non era, non è una questione di come è tagliata, è una questione di semplicemente di quanta ce n'è e dell'eroina in sé stessa, che è una droga del suo prezzo, ma ci sono parecchie cose che lo dimostrano. A parte quello che l'ho detto sul principio attivo, c'è anche il fatto che in qualche modo, se noi facciamo una mappa geografica delle overdose, delle zone di crisi, che poi sono le Marche, l'Umbria, la Toscana, parte dell'Emilia Romagna e adesso il Veneto, otteniamo una macchia d'olio che dalle zone di sbarco si spande per il resto del paese. Perché arriva dall'Adriatico questa eroina? Arriva tutte e due le maggiori vie che portano l'eroina in Italia. C'è quella storica, classica, che è la via dei Balcani, che è quella che fa Iran, poi Turchia, poi attraverso la Turchia passa direttamente nei paesi balcanici europei e dopodiché attraverso l'Adriatico. Questa è la via dei Balcani e la via storica. Adesso si è aggiunta una nuova via, che è la via africana, per cui l'eroina raggiunge molto facilmente dall'Afghanistan Karachi, poi da Karachi sbarca sull'Africa orientale, risale via terra fino alle coste del Mediterraneo, alle coste africane, e poi viene di nuovo imbarcata. Più o meno il giro è questo. Entrambe queste rotte portano in Adriatico. Ascolti, c'è la sensazione che i consumatori siano sempre più giovani, come abbiamo letto da qualche parte, oppure no? Sì, perché l'eroina è entrata nel mondo del policonsumo, in qualche modo, è uscita dalla porta e rientrata dalla finestra, per capirci. Ed è stata proposta come sostanza paracadute, cioè quando ci sono questi eventi festaioli o eventi dance o cose così e compagnia bella, alla fine degli eccitanti, solitamente, perché sono cose che vanno avanti più che altro a forza di eccitanti, e gli eccitanti danno effetti collaterali, non consentono di dormire, c'è bisogno di quello che gli americani chiamano down drug, cioè droga che abbassi. L'eroina è stata proposta in questo modo. È stata proposta in questo modo ed è rientrata nel mondo del policonsumo. Rispetto alle resistenze che c'erano legate al fatto dell'uso della siringa, che erano resistenze forti, è stata proposta la modalità di fumarla. O di sniffarla c'era anche prima ed è comunque una modalità pericolosa, Pulp Fiction insegna, sì. Mentre fumata non espone al rischio di overdose. Cioè, in queste overdose sono anche preoccupanti per il fatto che, se noi teniamo presente che ormai 2 su 3 l'eroina la fuma e quelli non corrono il rischio di morire, poi ci sono centinaia di migliaia di persone in carico ai servizi in trattamento con farmaci oppioidi e quelli non corrono il rischio di morire, e allora questi morti avvengono su una base molto più ristretta di una volta. Certo. La ringrazio, dobbiamo chiudere. Grazie per i chiarimenti a Salvatore Giancane, autore di Eroina, la malattia da oppioidi nell'era digitale, e come avete sentito, un medico che si occupa proprio di questo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. Il nostro giro per l'Italia riprende dalla provincia di Bergamo, dove ieri c'è stato un tentativo di stupro, come sapete, nei confronti di un'operatrice di un centro di accoglienza da parte di un richiedente asilo. La donna è stata salvata da altri due richiedenti asilo ospite della struttura di accoglienza e cerchiamo di parlare con una persona che se ne occupa di queste cose e che fa essa stessa l'operatrice nei centri di accoglienza e che ci racconterà come si affrontano queste situazioni, se c'è veramente un rischio per le donne che operano all'interno di questi centri. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la Banca Centrale Europea conferma la ripresa, una crescita europea, forte contributo da donne e immigrati, dice nel bollettino. Sul problema della pedofilia, la coscienza della Chiesa è arrivata tardi, lo dice Papa Francesco. In Catalogna prosegue la protesta dopo gli arresti, in centinaia si raccolgono sotto Palazzo di Giustizia. In Messico sale a 245 il numero delle vittime per il terremoto, 115 solo nella capitale, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Sì, però ragazzi, piantiamola con questa storia che ce l'abbiamo col Movimento 5 Stelle. Quando abbiamo parlato di Torino che annulla gli eventi all'interno della città per il G7, non abbiamo parlato del Comune di Torino, perché ci state continuando a scrivere siete a favore, siete con il Ducetto di Firenze e contro il Comune di Torino che è amministrato dai 5 Stelle. Ma figuriamoci, abbiamo detto chiaramente che sono stati il questore e il prefetto a sconsigliare alcuni eventi. E poi la parte politica si può adeguare come può non adeguarsi, ma il potere che ha un comune rispetto a un questore o ad un prefetto che gli dicono determinate cose è evidentemente limitato. È comunque una sconfitta per la città il fatto che di fronte a dei violenti o a delle ipotesi di violenza non si possano celebrare degli eventi all'interno della città stessa. Su questo saremo d'accordo. Poi che la sconfitta in questo caso non ha padroni, non ha responsabili quantomeno nel Comune di Torino, però è sicuramente una sconfitta per la città. Veniamo ad un altro caso di cronaca, quello che è avvenuto ieri in provincia di Bergamo, dove un'operatrice di un centro di accoglienza ha subito un tentativo di stupro, un tentativo di violenza da parte di un richiedente asilo. È stata salvata da altri due richiedenti asilo richiamati dalle urla. Come sempre in questi casi, così poi chiariamo anche come ci muoviamo noi sulla cronaca, quando ci sono dei fatti di cronaca nera ci interessano, perché molto se ne è parlato in queste settimane di quanto la stampa italiana dia spazio alla cronaca nera. A noi interessano i fatti di cronaca nera quando ci consentono di raccontare qualcosa d'altro, di capire se c'è qualcosa di più e qualcosa oltre quel singolo fatto. Nella fattispecie vogliamo capire come si gestisce una situazione complessa nella quale una larghissima percentuale dei richiedenti asilo, degli immigrati, dei profughi che arrivano in questo paese sono maschi e giovani, e come si riesce a coniugare tutto questo con culture che non sempre hanno il rispetto della donna che hanno che si ha in Italia, tra l'altro non dappertutto a dire il vero. Abbiamo in linea Chiara Visini, che è coordinatrice di Equipe per conto della cooperativa RUA, che si occupa proprio di accoglienza. Visini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. La prima domanda è se questa cosa rappresenta un problema oppure no. Il fatto di cronaca intende? No, non il fatto di cronaca, ma intendo in generale se rappresenta un problema, se per le donne la sicurezza è un problema per le donne che lavorano in questo ambito. All'interno dei centri. Sicuramente un argomento che viene preso in considerazione da chi fa questo genere di lavoro, da chi lo coordina e da chi lo organizza. Bisogna prevenire. Il nostro ruolo è un ruolo educativo e bisogna intervenire sia sugli operatori. Quindi nel nostro caso mettiamo in atto delle misure chiedendo agli operatori di approcciarsi in un modo estremamente professionale agli ospiti, mettendo e seguendo un codice etico in quello che noi facciamo, quindi un abbigliamento sobrio, non dare un indirizzo Facebook, un indirizzo di casa alle persone con cui lavoriamo e mantenendo il rapporto sempre su un piano estremamente professionale. Sì. Dall'altra parte sicuramente un tema da affrontare e da affrontare con gli ospiti, e quindi li immergiamo da subito nella realtà italiana, accompagnandoli a quello che è il ruolo della donna in Italia e la posizione della donna. Quindi c'è, come dire, c'è un tentativo, per così dire, di chiamiamola educazione, aperte virgolette, al rapporto con la donna, che è diverso da quello che può essere nei loro paesi di provenienza, no? Esatto, è un argomento che s'affronta, è un argomento su cui accompagniamo gli ospiti a una visione differente. Quindi appena arrivano nei centri c'è un discorso che viene fatto sul ruolo della donna e sul diritto della donna in Italia, il fatto stesso che gli operatori siano donne, ma anche il fatto che il coordinatore ad esempio sia donna, cioè il capo della struttura è una donna, da un esempio pratico di cosa significhi. Come viene recepito questo dalle persone che sono ospitate nei vostri centri? Viene recepito, c'è un grande rispetto in realtà nei confronti delle donne che lavorano all'interno dei centri, sono gli ospiti stessi in molti casi che ci danno un rimando rispetto a questo ruolo, e viene recepita questa informazione. Sicuramente il lavoro degli educatori li accompagna nell'approcciarsi a questa cosa, siccome trovano poi le donne nei servizi, agli sportelli, nei supermercati, ovunque c'è una relazione con la donna che è da gestire in un modo diverso, quindi è un accompagnarli a una gestione differente. Quindi non c'è, per le operatrici non c'è un problema di sicurezza? Io faccio questo lavoro da più di 2 anni, io personalmente le posso dire che non ho mai percepito un senso di pericolo, lo stesso è quello che mi riportano le mie colleghe, ripeto, il lavoro che viene fatto è un lavoro preventivo, poi sia sugli ospiti sia su chi poi con queste persone lavora. La ringrazio, Chiara Visini, coordinatrice equipe per conto di Cooperativa Rua. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire il traffico, Mario Platero, no, non abbiamo il traffico? Chiedo a Paolo Corleoni in regia, sono stato troppo puntuale a lanciare Mario Platero, vediamo se ce l'abbiamo i colleghi del traffico, via!